adesso quando piazzo l'altra la tiro su di almeno 3 metri, quella nuova che piazzo, almeno potrò sentire qualcosa in più pure, avrò meno QRM perché dice che la Game Master è molto silenziosa, invece non c'è roba di QRM, è biglio. Noi siamo piccoli e neri, Natali. E cosa vuoi, purtroppo? Ah, e c'ho la mantova 1 che se ne sta ridendo. La mantova 5, anzi, voglio precisare, la mantova 5 che se ne sta ridendo in campagna, c'ho fra 12 metri di palo. Ma ti puoi mettere un transponder, che te la usi col transponder? Gira gira, piazzo le apparecchiature in campagna e le comando qua da remoto. Oh, col tuo S2000 lo posso fare, io lo so, è questo, posso andare per dire a Milano, mi connetto a internet, tac, e comando col cellulare, mi comando l'apparecchio, ce l'ho il programma, io l'ho installato. Lo so, solo che cazzo è poco guida il TS2000. Diciamo una radio ancora ricercata perché è completa, c'è un sacco di cose, naturalmente ci sono radio superiori, però di quadribanda ce ne sono pochi, forse non lo so, forse ne ha fatto uno lo Yaesu simile, però molto raro da trovare. Mi ricordo c'era un programmino che praticamente citava un ponte che c'era in Sicilia, non mi ricordo che da questa zona di Catania, e tu dal computer schiacciavi il PTT e praticamente lì trasmetteva con la portante il segnale in Sicilia e tu parlavi con Catania per esempio. Sì, ma me lo stavano spiegando l'altro giorno, addirittura lo fai, anche tu non hai la radio tua, ci sono delle stazioni in affitto, quindi una stazione, posso dire, in Olanda, normalmente sono in Olanda, tu ti connetti, ti danno la password, entri col tuo cellulare e usi quella stazione lì che hanno megatralici, eccetera, eccetera, come che sia la tua la cosa, la radio, ti paghi il canone, non so come funziona l'abbonamento, e ti usi una stazione remota non tua, cioè hanno fatto anche addirittura questa cosa. Comandi tutto dal computer? Con il cellulare lo puoi fare, se c'è il computer anche meglio, è più facile perché c'è il mouse, ti muovi e riesci a fare. Tu per dire c'hai quanti posso dire, il 440, vabbè lì ci sono radio di altri tipi. E sei qua, ti suti una stazione che è in Olanda, che c'ha un bel traliccio, una bella batteria di antenne, e tu prendi, ti scegli la frequenza, ti abboni a questo gruppo di coso. E come per dire, tu ti affutti, devi fare un buco a casa, ti prendi un escavatore e te l'affitti, la stessa cosa ti affitti questa postazione radio, ci sono delle cose remote, dei ricevitori remoti e tu ti colleghi e fai quello che vuoi. Sicuramente puoi usarlo a tempo, dai, uno per volta, perché non penso che puoi utilizzare la stessa antenna due persone contemporaneamente. No, come no, certo ci possono usare anche nella stessa antenna, con i duplex puoi fare tutto, e praticamente le trasmissioni, questi punti ripetitori, parliamo broadcasting, i canali media, sette cose, ce l'hanno da decine e decine di anni, trasmettevano 5 canali sulla stessa antenna, ci sono dei cose, chiamiamoli duplex, se è detto volgarmente, sono dei sistemi di cose, di trasmissione, sullo stesso cavo ti trasmettono diverse, ci sono sistemi elettronici naturalmente per gestire, e tu fai la stessa cosa, non so quanto sia il limite di numero, quante ne puoi gestire di apparati. Ci sarà un limite, oppure ti, non so, una frequenza diversa, non so, come dici tu, come i canali della TV, su un canale ci sono varie piattaforme, dai. È più o meno come il discorso del satellite, non hai visto che c'è due o tre uscite, ti puoi attaccare due o tre ricevitori, addirittura ti puoi mettere col dual feed, ti puoi sintonizzare sui due satelliti vicini, adiacenti, puoi fare tante, ormai con la tecnologia dal cavo dell'antenna puoi motorizzarti l'antenna, diciamo parabole di dimensioni entro l'80-90 cm, però utilizzando lo stesso cavo, per dire, negli impianti miei quello che ho io deve avere il cavo di alimentazione separata perché sono parabole grosse, ci vuole posizionatore eccetera eccetera, ma tu adesso ci sono dei televisori che hanno il DISEC, un sistema di controllo di comando, e ti metti una parabola motorizzata, ti puoi vedere 10, 20, 30 satelliti e ti fa tutto con lo stesso cavo con un'unica calata. Allora, c'è 100.000 canali. diceva, io con il pianto mio, non per vantarmi, ma ti stanchi di cercare canali. Fatti conto, su YouTube ci sono 3900 canali, solo su quello. Più c'è Astra, altrettanto, poi ci sono tutti gli altri, le altre flotte di satelliti. Tu mi dirai, sono tutti stranieri, non ti hanno fatto nulla. Però chi è appassionato di cosa? Di stazioni televisive e anche radiofoniche soprattutto, e ce ne sono tante. Poi adesso ci sono i satelliti radioamatoriali, per dire, c'è un satellite, infatti stavamo facendo delle prove l'altro giorno, e ti puoi connettere al satellite e parli con tutto il mondo. È uno spettacolo a frequenza. Ma tu cosa c'è? Adesso io sto facendo esperienze, sono alle elementari come ho detto prima, ma mi sto rendendo conto che è talmente vasto il campo radioamatoriale di frequenze, di operatività, di cose. Se WL, io mi hanno installato ci saranno una quarantina di programmi solo per ricezione, ma tu vedi cosa ricevi, tutti i bollettini del mare, cose anche particolari che non ti hanno fatto nuda, di cose, cosa cazzo ti posso dire, di stazioni a terra che trasmettono il segnale orario con l'orologio a tu, cioè tante cose da ricevere, immagini di qualunque genere. Sì, il bollettino lo sento, vabbè, sono anche sul portatilino, non mi ricordo che frequenza sia, quello lo sento il bollettino. Cosa volevo dire poi? L'altro giorno mentre che ti sei collegato hai sentito anche il satellite, così? Sì, diciamo uno semplice, ne ho fatto uno la prima volta malissimo perché non si sentiva, non riuscivo, c'era un'antenna piccola, adesso con quella grande sono riuscito a collegare e mi ha dato la conferma di ricezione, questo dell'Ucraina, perché questo tipo di satelliti, questo che ho fatto io, come si chiama, passa non so quante volte al giorno, mi pare passi una novantina di volte al giorno perché è in orbita geostazionaria a 36.000 km e però lo devi prendere in quei pochi minuti che passa e devi sperare che sia in quella posizione favorevole, perché magari ti passa sopra la testa, però è inclinato diverso, l'antenna non riesce a trasmettere. Però è capitato un paio di volte, sono riuscito a mettermi in collegamento, ti danno gli orari, trasmette su una frequenza e riceve sull'altra, ci vuole infatti un doppio ricevitore trasmettitore, ed è divertente, e fai collegamenti intercontinentali di distanze impensabili con poca potenza e vai un bel lontano. Poi c'è quel satellite fisso geostazionario, che quello ti colleghi, però è un po' delicato, di lì ci vuole esperienza, lo fanno pochissimi con grande esperienza, di lì a riceverlo lo ricevi diciamo anche con impianti non troppo sofisticati, però a trasmettere ci vogliono delle molta esperienza, non sono molti che lo fanno quello lì. Ok, data lì a te il mic. Ecco, io ho la parabola, però ho problemi col satellite per poter agganciare il satellite TV, per esempio devo metterla sul tetto per forza, qua è un problema, infatti l'ho smontata e ce l'ho nel portone ed è nuova e magari ti fa ombra il palazzo vicino, ma basta molte volte spostarla di mezzo metro, riesci a agganciare. Anche io quella piccolina, io ne ho tre di parabole, due motorizzate e una fissa, l'ho messa su un satellite dove trasmettevano le partite, fissa di lì, e prima l'ho provata giù sul terrazzino, il segnale c'era però era troppo debole, e ho detto ma che strano, infatti c'era il palazzo, mi faceva ombra, l'ho presa, sollevata un pochettino di altezza, messola nel terrazzo e funziona perfettamente, perché quando non sono troppo inclinate le parabole, soprattutto su quelle bande lì dove c'è Outbuild che sono a 13 gradi est ed è più o meno a centro di, chiamiamolo centro di posizione polare, e l'antenna è molto, non è inclinata, per dire, se te ne vai nei satelliti, in altri tipi di satelliti è molto inclinata, per cui il segnale lo ricevi più facilmente, ma se sei in un palazzo basso e c'è quell'altro un albero grande che ti fa ombra, molte volte si ha difficoltà e uno dice cacchio, ma c'ho la parabola, mi sposto di mezzo metro, dicevi, molte volte basta un ostacolo e ti fa perdere il segnale. E infatti non è quello, con lo strumento e tutto non ci siamo riusciti. Anche qua, io poi non l'ho mai montata, però ho visto che hanno problemi, perché sicuramente il satellite rimane al centro del palazzo, quindi loro provano prima a metterlo a destra del palazzo, poi a sinistra, alla fine rinunciano e lo mettono sul tetto, eppure non ci sono alberi. Ma lì c'è qualche palazzo che ti fa ombra, tu vai a Platamona, lo metti in terra che non ci sono ostacoli e funziona su tutto l'arco polare, ricevi tutto, molte volte ti trovi in difficoltà per dire l'antenna per 20 gradi funziona bene, poi va a 30 gradi e cacchio, vedi che non riceve più niente. Ma come cacchio, questo satellite è più forte dell'altro, non riceve, perché magari c'è qualche punta di palazzo, qualche albero in quella posizione che li fa da ombra. Ma no, proprio il loro palazzo stesso fa da schermo, non riescono a convergere il segnale perché viaggia il segnale, c'è la parabola parallela al palazzo, non puoi tu inclinarla verso l'interno del palazzo perché ti fa da schermo. Allora cambiano, la mettono tutti sul tetto, però ci provano tutti all'inizio. E infatti bisogna andare con qualche installatore, diciamo, che c'ha esperienza a conoscere quelle cose, ma ormai con gli strumenti si fa tutto, in pochi minuti prendi, appoggi e ti rendi conto se c'è problema. Sono posizione fissa, lo fa anche un ragazzino. Il problema è quando devi fare un impianto motorizzato, di lì viene la difficoltà, perché è talmente precisa la cosa, basta che sgarri appena una fesseria e perdi tutto. Magari prendi i satelliti centrali e non prendi quelli agli estremi, o viceversa. Se non hai trovato l'arco polare è molto molto difficoltoso, ci vuole grande esperienza e strumentazione, se no non ci riesci. Infatti quando abbiamo piazzato, poi più grandi sono le parabole, le tolleranze sono ancora più sensibili. Tieni presente quella grande da 2 metri, la mia c'ha 0,5 gradi di tolleranza. Se tu ti sposti di 0,5, cosa vuol dire 0,5 gradi? Una cosa infinitesima, è per il segnale. Poi il palo deve essere perfettamente a piombo, ma proprio millimetrico, è un problema, se no. Mentre con una piccola, anche se appena spostato, l'agganci lo stesso il satellite, parlo di questi a 13 gradi, a 16, a 19, che sono forti i segnali. Però quando fai tutto a est o tutto a ovest, se cioè non hai perfettamente, non hai agganciato l'arco polare, puoi avere la parabola che ti biasi, perdi tutto. Dai, hai montato una parabola da 2 metri. Io ne ho 2 di parabole motorizzate, una a 135 offset, come ce le avete più o meno tutti, che rimangono leggermente schiacciate, e poi ho quella grande di 2 metri di primo fuoco, che quelle sono perfettamente tonde e risultano un pochettino più inclinate rispetto alle altre. Cazzo, 2 metri è grande. Vabbè, non è per uso domestico, dai, per fare certi tipi di operazioni, dai. Adesso non ti ne vai nuda, nel senso che tu adesso col satellite che c'hai ricevi, ma quando lo facevo io, che mi guardavo le partite nel 95-96 in poi, che non esistevano ancora le televisioni private, almeno italiane, le PTV, poi è uscito Tele+1, Tele+2, hanno iniziato a dare le partite, ma io me le guardavo sui trasferimenti, per dire, la Rai ti dava la partita Juventus Milan sul satellite, lo trasmetteva a Roma, da Milano lo andava a satellite e poi lo riversava a Roma, dove c'era il coso, la distribuzione per tutti i punti ripetitori, eccetera. Io mi guardavo tutte le partite, mi guardavo i trasferimenti quando c'era il 90° minuto, che si collegavano con i campi, dice da Torino, Napoli, Milano, eccetera. Il collegamento c'era, la frequenza fissa, tutto in analogico, parliamo digitale, adesso è un po' più complicato perché ci sono un sacco di parametri da verificare, che lo faccio comunque, la stessa cosa, però le informazioni che devi dare al coso, al ricevitore, sono molto ma molto superiori, mentre di prima era orizzontale e verticale, oppure destroso o sinistroso, alla polarizzazione non c'era niente da fare. Adesso ci sono un sacco di parametri, perché nel segnale digitale fanno in modo di non fartelo vedere, ci danno, infatti devi avere grande esperienza per ricevere quei segnali lì, quelli particolari. Infatti io la partita, c'era un satellite a 45 gradi dell'Azerbaigian, che da tutte le partite, comprare la Coppa dei Campioni, cosa vado di lì, anche se io sono da zone, però se voglio vedere la partita vado di lì, giro il satellite, anzi non lo giro neanche perché è già orientato di lì la parabola, a 45 gradi, metti, ci vuole la parabola grande, se no non prendi niente. Vabbè, te la guardi, te la ascolti con la lingua locale, sì, e poi prima i segnali erano marginali qua in Sardegna, mi ricordo, quindi ci volevano parabole enormi, poi come dici tu i segnali sono cambiati, sono più forti. E poi tornando a satelliti, mi ricordo c'era un programmino dove mi indicava il passaggio di tutti i satelliti sopra la tua zona, ce l'avrai anche tu sicuramente dal programmino. Ma io c'ho già, allora io c'ho un ricevitore non per vantarmi, era il topo del topo della Ecosa, ne ho avuto già diversi, questo è il terzo, anzi il quarto ricevitore motorizzato che ho, adesso ne ho messo l'ultimo che era il topo di gamma della Ecosa, l'americano, ma quelli sono micidiali, quelli hanno l'autosat, tu imposti un satellite e ti ricerca tutto in automatico, c'è una pagina nel menu e ci scrivi 46 gradi, lui va attacca e te lo cerca, c'è il nome del satellite, già scritto, glielo puoi scrivere tu perché molte volte cambiano nomi, voglio andare a 15 gradi, faccio tac, schiaccio e me ne va a 15 gradi da solo. Fa da 62-65 gradi est sino a 60 circa ovest, per cui fa quasi tutto l'arco polare. Vabbè, oltre non ci puoi andare, che poi c'è l'orizzonte e l'antenna è quasi dritta, non ricevi niente. Per cui qua in Italia il massimo che si riesce a ricevere in certe posizioni dove desertiche, che non c'è niente, arrivi fino a 70-75 gradi, ma non c'è quasi niente di lì. I satelliti principali sono prima, diciamo arrivi fino a 40 gradi, 45 gradi est e una quarantina gradi ovest, come per ricevere cose interessanti. Lui deve ricevere un canale che non venuta di roba, ti posso dire, del Sudan o del Congo, non ti ha fatto nulla, ma i canali interessanti sino ai 28-30 gradi c'è qualcosa. Ad est ci sono i canali dove trasmettono anche i canali italiani, ci sono un sacco di cose, ci sono i trasferimenti delle televisioni nazionali, e c'è qualcosa. Io quando andavo prima c'era ancora quella del Golfo e cose del genere, e c'era la CNN che non ce l'avevano molti, pochissima gente l'aveva la CNN, la ripetevano nelle televisioni, e io riuscivo già a agganciarla. C'erano le partite delle NBA americane, la pallacanestro, che ancora non era molto conosciuta, ormai attacchi internet la guardia, ma vedere prima, in anteprima le partite, quando venivano gli amici, io vedevo la Juventus, come vieni a casa e te la faccio, non ci credo, e venivano, ce la guardavamo. Certo, dai. Buona chiacchierata, vi saluto, vi abbraccio e vado a mangiare qualcosa, dai. Buona carica anche a voi se la farete, e ci sentiamo alle prossime. Avanti Natalino. Natalino non c'è. Vabbè, ciao. Mi sa che ho monopolizzato troppo, dai, a me mi appassionano i satelliti, quando parliamo dei satelliti mi si trizzano le orecchie. Franco, ben sentito, anche a te, ci sentiamo prossimamente. Natalino probabilmente l'hanno chiamato, sta mangiando, non lo so. Comunque saluto anche a Natalino se è all'ascolto. Ciao Franco, stammi bene e buona cena. Ciao Franco, no già ci sono, non ho fatto in tempo a schiacciare, che c'era mia moglie che mi stava dicendo cosa. A proposito, che antenna usate per ricevere quel satellite che mi stavi dicendo, quello radioamatoriale? Beh, il satellite è quello Q100 e un satellite è quello del Qatar. Marco è molto inoltrato in merito, lui riesce anche a parlarci, non solo di... Io per il momento non lo posso ascoltare, cioè lo potrei ascoltare utilizzando l'antenna che ho, la motorizzata, però è dall'altra parte, il cavo è arrivato al ricevitore satellitare, nel momento è un'altra fissa piccolina e trasmette a 26 gradi est come posizione. E di lì devo scendere un cavo, l'attacco all'ICR 7000 diretto, lo ricevo in diretta il satellite. Poi te lo interfaccio al computer, lo posso anche attaccare al computer perché ho la possibilità di attaccarlo e ti appare tutta la pagina, ti appare lo spettro con tutte le frequenze, in quel momento le stazioni operative, ed è bellissimo per quello. Però solo in ricezione io lo potrò utilizzare, in trasmissione ci vuole grande esperienza e antenna particolare da costruire. Ah, l'antenna come quella che avevamo fatto io e Antonio ci vuole sicuramente. Sì, sono antenne particolari molto calibrate, non hanno tolleranze molto molto limitate, perché sono non ti sente nessuno, anche se devo dire bastano potenze bassissime, non è necessario avere, anzi se c'è troppa potenza va in saturazione il satellite e non ti fa neanche entrare, te lo blocca, per cui trasmettono con 10 watt massimo, qualcuno ne usa un po' di più, però è talmente forte la qualità di coso di questo satellite, per cui bastano anche pochi watt. E a me mi interesserebbe riceverlo solo, tanto mica ci posso parlare. Sì, a ricevere, ti metto una parabola, però ci vuole un ricevitore che arrivi almeno a 780 MHz, adesso mi ricordo se 780 o 790, non mi ricordo, con un convertitore particolare, perché ci vuole un convertitore termostatato, nel senso che ci abbia l'oscillatore assolutamente stabile, perché sennò non va bene, è lo classico convertitore che utilizzi nelle parabole, ce ne vuole uno particolare con il 4 termostattato, in modo che sia stabilissima la frequenza, se no non prendi niente. E, diciamo, non costa molto, costa una quarantina di euro su Amazon, e con una parabola da 60 cm riesci a agganciare tranquillamente, con la parabola da 20 euro in su le trovi. E la parabola te l'ho già, è furbi umana di... sì, tanto non è necessario. Sicuramente con 60 cm non vedi niente dalla televisione, perché ci vuole una 120, diciamo da 100 a 120 per ricevere i canali televisivi. Con una 80, se piove appena appena, non ricevi niente. Però per questi canali radioamatoriali basta anche una parabola da 60. L'ideale è averne una da 80, così se ci sono intemperie non ci sono attenuazioni di segnale. E adesso non lo so da quant'è la mia. Diciamo mediamente sono tutte da 60 le parabole, poi qualcuno la mette da 80, però ho tubito è talmente forte anche con una parabola da 45 cm, vabbè questo è un altro satellite, non c'entra niente con Otubil, però Otubil con una parabola da 45 cm arrivi a bomba, ti arriva il segnale, perché proprio sull'Europa è talmente forte, per cui il satellite è quello che dove si collegano tutti, dove c'è Sky, TV Sat, eccetera, trasmette con potenze altissime e il fascio di radiazione è proprio puntato sull'Europa, per cui anche con uno specchio di 20 cm non ricevi il segnale. E io non riesco a riceverlo, se non lo metto sul tetto non c'è nulla affatto. Ti ripeto, il problema tuo è questione di ombra, c'è qualcosa che ti fa da ombra. Beh Natali, ci sei ancora? Natali, se mi stai ascoltando io vado a mangiare qualcosa, poi magari se coincide ci sentiamo dopo, dai. Ciao, se vi farò la cena ti saluto anche a te e ti auguro buona cena anche a te, io vado a mangiare qualcosa, dai. Altrettanto, ciao ciao. Vabbè, ci sentiamo alle prossime se coincide. Io ciao ciao. Ciao mangiare, che grazie. Mia Gianfranco, ciao Gianfranco. Ciao a tutti. Robert, dove vai? Stavo andando a mangiare qualcosa adesso. C'era molta fretta, proprio spento al volo. Ha detto che rientrava più tardi. Sotto c'è sempre gente, ma non ho capito dove sono. Sono troppo azienda. E allora Natali, che si dice? Storia, ecco. Rimette, crea una storia. Non ne so. Stavo parlando con la 50, Gianfra, è un rompimento di scatole questo. Loro dicono lo stesso di noi. Natali, allora la situazione non è cambiata ancora? No, sto facendo delle visite mediche, non ho tempo, Gianfra. Appena finisco questa cosa che devo fare, allora farò qualcosa. Infatti ti conviene approfittarne, perché non sono tutti che lo possono fare, perché molti appuntamenti si stanno annullando, un disastro. Domani devo andare a pagamento addirittura, perché al policlinico non avevano date e quindi devo pagare. Ma cosa vuoi ti dica? Un casotto. Purtroppo è così. Domani devo essere presto lì, che aprono alle 7:30 l'accettazione. Ma dov'è? Perché è un policlinico a pagamento. E a pagamento devo andare, allora. Devo fare due visite all'occulista. Non hai provato lì a farle in veterinaria, che magari te la fanno prima, è meglio. E via Venezia. E poi non c'è gente che è lì e sta sempre a chiacchierare, eccetera, tranquillo, capito? Al limite senti qualche paziente che c'ha paura, che fa meow, meow, meow. Miau, mi ha portato, lì mi è costato 1500 euro, perché hanno azzannato il mio cane e gli hanno fratturato la zampetta di dietro, in tre posti, poverino. Ma è guarito, sì. Perfettamente. Non ti hanno risarcito che il proprietario del cane. 1500 euro mi è costato quello scherzo lì, e poi li ho dovute pagare di tasca mia, perché dice che non aveva padrone questo cane, quindi era senza il chip. Deve essere comunque, vabbè, è andata così. Tutto un casotto. Pazienza, ci scivolata lì. Lo so. E meno male che il cane mio era in regola, se no mi avrebbero anche multato se non aveva avuto il chip e tutto quanto. Capito? E quello lì ci hanno lasciato andare, ovviamente. E quello lì, purtroppo, se il cane non ha padrone, io già lo so di chi è, io non mi hanno voluto dire neanche chi è il cane, se no gliel'avrei aperto in due. Ma sempre lì, dove sei adesso, in quella strada, in quella zona. Come? Sempre in quella zona, in quella strada dove stai ora. E lì, in quella zona lì. Il padrone già lo so chi è di questo cane, però il cane non me l'hanno fatto vedere. Era al guinzaglio con mia moglie, questo è il mio, no? E l'ha preso da dietro, era libero, capito? E l'ha morsicato. Siccome il mio è di quei cani piccolini, e allora gli ha fratturato la zampa destra posteriore, in tre posti. È un posto in cui capitano molte cose, dove stia. Ma dimmi, non se ne è manco accorto perché è andato da dietro quel cane là, era uno di quei cani di quelli feroci proprio, quelli tipo pitbull, ma non era manco un pitbull a quanto mi hanno detto. Chissà che cani è. Quelli andrebbero catturati e messi un posto sicuro, lontano anche dalle persone, perché sono anche quelli addestrati a fare del male, quindi. E è un delinquente il padrone di questo cane, guardate qui. Tutta gente cattiva c'è qua da queste parti. Da quello che dici veramente. Eppure c'ho anche qualche collega che abita di lì, però via Rosello. Lui diciamo è tranquillo, dice che conosce un po' tutti e tutto. Forse è solo la tua zona, quel posto lì. E in via delle muraglie è successo. Che mia moglie lo stava portando in giro al guinzaglio, questo cane gli è uscito da dietro e l'ha morsicato, ecco cos'è. 3.000 euro, vabbè, anche quelle cose capitano. E poi altre novità, niente, tutto tace. Per il momento sì. Ho fatto tutti gli esami da portare al cardiologo, però lo telefono martedì perché domani c'ho una visita, c'ho queste due visite da fare, almeno me ne libero e poi prendo l'appuntamento al cardiologo a portargli tutti quei documenti che gli devo portare. Che dottor Natali, non sa niente di Giulio, è da molto che non lo sento. Anch'io, sono da un bel po' che non lo sento, evidentemente o non ne ha voglia, evidentemente, oppure boh, non lo so. Vabbè, ok, dai, Natali, quasi quasi, anch'io chiudo, sto facendo un po' d'ascolto. Me ne vado a guardare un po' di più. E vabbè, buon proseguo allora di serata, buona cena quando la farai, anche io me ne faccio in quei ritti, da. Ci sentiamo alle prossime se coincide Gianfranco. Ok, ciao, buona notte, alle prossime. Ciao, ciao. Questo del CV doppio. Accendiamo il CV doppio. È fatto bi. Perché stavo chiamando se c'era qualcuno. Antu. E allora? Tutto a posto? Tutto a posto, da buoni a posto. quando andate che si baracchini che ma quindi che mi ci guaccane e da poi si può fatto canto. No, ho compreso, cosa che ha detto che la fa vedere le mie moglie? Ha già detto, vendi i cacciacchi e i baracchini, se no va finito che si devo lampare. E cosa si deve lampare? Perché sono sempre fermi, a fare il tratto. Dice a radio, era ben, ma non si sa quanto tempo. Ah, basta, cioè, adesso lo uso, cavolo. Lo papà si guarda e cioè, te la vuole appavvira che si brucia che cosa dentro. Guarda che componente. Ma che radio è? Quella come quella che avevo io? Sintec 550. Ah, cazzo. E ogni tanto li accendi anche se non parli. Li accendi e così caricano i condensatori. La chitarra radio io ce l'ho da tanti anni e mi piangeva il cuore non usarla. Cioè, cavolo, è nata lì, era già pagata di cose. Anche se c'ha quasi 10 anni, però. Ehi, non ce la devi buttare, ma se sta funzionando bene. No, la voglio usare, la voglio pure. Infatti a giro le fai funzionare tutte, le lasci accese e poi le metti sotto antenna quando le devi usare. A tenerlo spento non fa, c'ho un mezzo anche l'altro, quello blu, cavolo, la radio senza attendirlo, quello blu e lo la paia di Zeus, una cappa su gatto, lo cosa mai mi c'ho di Natale, lo come ti si chiama, lo Smith, ragazzi, siamo vicini, siamo, sono basso. L'antenna, capito? Ma quando piove a 2,5 salgo. Isolarlo bene bisogna quella fare. Se li usi libera la bobina. Ah, lo sai che ho visto alcuni video che. Dimmi con paralisirio. Ho visto quell'esilio tipo tornado e cosa. Guarda che dove c'è quella cosa. Si rompe lì, dove c'è quell'isolatore? Sicuramente è rotto il mio, ed entra da lì sopra, mi piena tutto dove c'è la bobina di acqua, magari c'è qualche insetto dentro, mi ha otturato il buco, e c'è un buco lì per scolare l'acqua, no? Deve essere che a scolare ci mette un bel, tocca 2,5 di stazionare, quando piove mi manda in corso la bobina. Ma lui già non è fatto di chi sono, appena di più, ma non è fa di queste cose qua. Ho detto che la Ringo è rinomata a me, avere questi problemi qua. Eppure a me mi si viene, ma poi va nulla, perché bisognerebbe scenderla, magari togliere qualcosa di trasparente e mettere il nastro vulcanizzante. Magari quello, cosa c'è, un bicchierino? È un affare trasparente, c'è lì che si piena, che trattiene l'acqua, amico. Molto marrone. Mi sa che vuole vulcanizzare. Vabbè, ma bisogna dire a Miru, magari è e vulcanizzare un di vera cosa la bobina, sempre che non si gioca il nastro vulcanizzante quando usi l'antenna, boh, non lo so. Perché se entra acqua si fa quel gioco lì. Casino, eppure quella di coso di Daniele non è fa di quelle cose. Per esempio Marcolino ce l'ha precisa e non gli fa nulla. A me deve essere, mi si è rotto il gommino di sopra, no? Ed è entrato lì l'acqua. Se no che magari ribbono di silicone o qualche cosa va a isolare in chivi e così non entra, reva. Ma ce la butto quell'antenna, non me ne sbatte nulla. Quando mi la paro usi la rampa e buco. Sali, ma mi ha detto che la devi dare. E cavolo, con la partita me la piglio io. E la dovevo dare a un amico, la devo dare, ma non lo so se la vuole adesso, perché io gliel'ho detto che si riempie di acqua, capito? Ma sai perché si riempie d'acqua? Te lo dico io, perché c'è la punta di sopra piegata, e quindi sicuramente come ti è pigiata magari entra dai chimi, capito? No, entra dal coso, dal gommino che c'è, quel gommino che dove tiene la bobina, da lì entra l'acqua, non entra dallo stilo, no. Non c'entra niente lo stilo. Ah, vedi, se non la vuole già me la piglio io, non ti preoccupare, me la scendo in garage, se non la piatto me la scendo in garage. Ma devi trovare un modo che non entri acqua. Se mi vai a vedere cosa è, io l'ho visto. Basta bruvarla, la smontiamo. Cina di regione. Ma bisogna comprendere un dietro. Ma è dove ti sto dicendo io che entra. Dove ci sono quelle tre vie. Alla base dell'antenna proprio, che c'è un gommino nero. Da lì entra sicuramente. Allora se c'è caldo e se c'è che cosa? Finché non ce l'ho in terra l'antenna non lo posso sapere. Comunque mi piena la bobina di acqua, perché a me ogni volta che piove mi salgo una stazionale di 2 metri. Adesso come mai non ne ho? Perché è asciutta la bobina. A lungo andare praticamente è già puro. Di filo è la bobina, non è che si praticheggia, no. Bravo. Allora. Comunque c'è la nuova Ringo che è interessante, secondo me va bene. Per esempio Marco ce l'ha uguale alla mia, non si è mai rotta, un amico mio gli ha fatto lo stesso difetto, ce l'ha buttata, capito? Un altro difetto mio da fare. Ma sicuramente la fa così, perché c'è quello lì tuo. Glielo vicino bene, glielo cambi, lo fai, cazzo, non fatti più. C'è uno stub sopra, no? Quello che è piegato, che stai dicendo tu, è lo stub per regolare le stazionali. Però da lì non entra l'acqua, perché è vulcanizzato. Pappa gappa, non puoi dare duccia, se ne è andato. È un peccato, capo, perché però la bambina quando è funziona anche bene. Già funziona bene, io lui funziona bene. Se tu riesci a eliminare il coso dell'acqua, che sicuramente dove c'è quel gommino nero, sopra, che sono le tre punti che mantengono lo stesso, è lì che entra l'acqua. Entra direttamente dove c'è quel coso trasparente, dove c'è dentro la bobina. E allora si ferma anch'io. Ha pigliato qualche colpo questa antenna. No, non me ne ha fatto mai, ultimamente me lo sta facendo. Non me lo ricordo, dico la verità, perché la cacco è fastidiato. Magari se entra da lì basta mettere del silicone, guardate che c'è e ce la deve piazzare, non si viene a bisera. Perché una volta che è isolata non entra. Cappa, sicuramente. Sicuramente così mi nascalità. Hola, è a che ti do rendendare tu. Hola. E a che prendi così? Stiamo vedendo che... scusami un attimo, aspetta. Stazionaria a zero. Guarda se ballerino, va. Signore. Ma ballerino è il segnale, no? Prova che guarda, un busto. Hola, hola, hola. No, non è ballerino, è fisso. Sì, andava, Corretta, va, già le dai su, va. Pure se non è vecchissima, ma è stata usata molto questa. Adesso me ne devo buscare uno di quelli piccoli, di baracchino, per mettermelo in macchina. Però di quelli vecchi, a chi si nuovi burri di un pareggio, non si può educare. E noi non gli puoi fare niente, perché io ce l'avevo, l'ho regalato quello omologato. Ah, capito. Cursisso. C'è la legge uguale. Allora, è andata a modificarlo, data ed era per di là. Non si può modificare quegli appari, bisogna fatti apposta. Non fatti perché modificavano sempre, fatti a bomba. E allora hanno fatto la taratura dalla fabbrica. Ma non gli puoi fare nulla, non hanno nessun coso per regolare, capito? L'unica cosa che tu puoi fare è una cosa, attaccare il peccatore c'è più forte. Ma la radio cazzo addirittura non c'è manco la LC, manco la radio puoi regolare, nulla. Sono padre. Già lo so. Non lo so se poi di quelli dalla fabbrica, attaccandoli qualcosa, lo possono fare, però la fabbrica, non tu. Bisogna vedere cosa ne faccio, sei chissù, Sì. Ma penso che quelli nuovi, quelli piccolini, non si fanno da no. Adesso non lo so poi queste ultime che sono uscite, perché ho visto che ci sono un po' presidente, tanto c'è radio. Se sono sempre con questa tecnologia così che sono limitate. Ma sono diversi componenti pure, capito là? Non sono come le radio vecchie che sono i trimmer tutto per regolarli, invece un disco nuovo non li puoi educare. Già lo so, già. Sono un poco particolare, c'hanno le LSD mi pare, ma ne dico a me. Vabbè, Anto, io ti lascio, mi devo misurare la glicemia e mi devo guardare la panizione. Ci intendiamo alle prossime, dai. Ciao, Natalia, ciao, ciao.